in primo piano. Lunedì 13 giugno, le aperture dei quotidiani sono praticamente tutte dedicate al quorum del referendum. Le urne sono aperte fino alle 15. Il primo dato è che è un passo dal quorum, come titolano un po' tutti i giornali, il Corriere della Sera, referendum a un passo dal quorum, grande affluenza per Repubblica, referendum vicini al quorum, La Stampa, referendum affluenza record, quorum vicino, per l'Unità, sì, siamo a un passo, vota anche tu, Il Messaggero, referendum alta affluenza, Il Secolo XIX, corsa al voto, quorum vicino, per il quotidiano nazionale volata quorum, insomma vedete i titoli sono soprattutto su questo. L'edizione del Sole 24 Ore del lunedì, professioni, la fuga dei giovani, questo il titolo di apertura, architetti e ingegneri giù del 30%, l'abbiamo sentito anche nel GR. Per Il Giornale, la svolta del governo, tagliare le tasse si può, questo è il titolo di apertura. Da cosa voglio partire come segnalazioni? La prima, dal Corriere della Sera, è un rapporto sulla pubblica amministrazione e internet su cui si concentra Sergio Rizzo a pagina 21. È un rapporto abbastanza inquietante, sono dati del dossier della Confartigianato sul peso della burocrazia in Italia. Beh, che il rapporto tra internet e la nostra pubblica amministrazione non sia mai stato idilliaco, scrive Sergio Rizzo. Ne sono prova lo stato decisamente carente delle nostre strade informatiche, dove la velocità è settantesima al mondo, inferiore a quella della Giamaica. Ma certo, basta leggere questo rapporto di Confartigianato per capire alcuni dati inquietanti. Soltanto, sapete in quanti comuni è possibile oggi iniziare o completare una pratica via web? Cioè senza fare una coda praticamente, tutto con un computer. Bene, si può iniziare una pratica solamente in 541 comuni su 8100, cioè il 6,7% del totale, cioè solo in 6 comuni su 100 si può iniziare una pratica online. Figurarsi i comuni per i quali si può iniziare e completare una pratica tutta online. Sono appena 112, vale a dire l'1,4% di tutti i comuni. In più ci sono 1191 comuni che non hanno alcun tipo di informatizzazione per gestire il patrimonio. In 818 comuni italiani ancora non c'è un solo computer per la gestione del personale. In 49 comuni la contabilità viene fatta a mano. E tanto che Sergio Rizzo scrive a mano col punto esclamativo. Certo ci sono molti comuni piccoli, ma ancora dei comuni nei quali la contabilità viene fatta a mano. E scrive Sergio Rizzo: non meravigliamoci allora se nella classifica Doing Business 2011, con la quale si misura la facilità di fare impresa, la Banca Mondiale ci piazza l'Italia piazzata alla casella numero 80. E qui si torna su un vecchio tasto dolente. Qual è per Doing Business 2011 il problema più macroscopico dei nostri imprenditori? Lo stato disastroso della giustizia civile. Ce ne siamo occupati anche settimana scorsa. Alle imprese costa in totale all'anno 2 miliardi e 216 milioni. 1 miliardo 239 milioni per il ritardo nelle riscossioni dei crediti e 977 milioni per i maggiori oneri finanziari. Vabbè, comuni, le pratiche online fantasma, questo è il titolo di questo rapporto ripreso dal Corriere a pagina 21. La seconda segnalazione è dalla Stampa, è una cosa molto curiosa. Una blogger australiana, Bronnie Ware, è anche una cantante abbastanza celebre, pare, in patria. Fa anche un'attività meritoria, nel senso che assiste ai malati terminali negli ultimi giorni di vita. E allora che cosa ha fatto? Ha posto a centinaia e centinaia di persone che erano negli ultimi giorni della loro vita: qual è il tuo rimpianto? E ha scoperto che praticamente le risposte, le 5 maggiori risposte, sono le stesse per tutti. Quali sono i nostri rimpianti? Alla fine abbiamo tutti gli stessi rimpianti. Questo è il titolo di questa pagina sulla Stampa. Roselina Salemi racconta quali sono i 5 rimpianti maggiormente denunciati dalle persone che sono nelle fasi terminali di vita. La prima: mi sarebbe piaciuto avere il coraggio di vivere una vita vera per me stesso e non la vita che gli altri si aspettavano da me. Questo è il primo grande rimpianto. Volete sapere il secondo? Non avrei voluto lavorare tanto. Il terzo rimpianto: avrei voluto avere più coraggio nell'esprimere i miei sentimenti. Il quarto rimpianto: mi sarebbe piaciuto restare in contatto con i miei amici. Ora c'è Facebook, ma insomma. E il quinto rimpianto: avrei voluto concedere a me stesso la possibilità di essere felice. Questo secondo questa blogger australiana che ha raccolto tante, tante voci di persone nelle ultime fasi della vita, sono i cinque grandi rimpianti che tutti un po' abbiamo, prima o poi. Ci fermiamo per la pubblicità del meteo e poi rientriamo con le notizie della politica. Allora, certamente la notizia maggiormente sviluppata nei titoli d'apertura, come abbiamo visto, è la questione del referendum con le urne che sono ancora aperte, dunque non è che si possa dire molto, però sui giornali c'è qualcosa. Beh, intanto del quorum che ha già votato il 41%, in Veneto si è sfiorato il 43% e dunque, insomma, è possibile che si raggiunga il quorum, una cosa che non avviene da tantissimi anni nei referendum. Vediamo come l'analisi dei giornali. Berlusconi preoccupato cerca la sponda di Bossi, così la mette il Corriere a pagina 3. Tra l'altro racconta Marco Galluzzo di questa battuta di Berlusconi ieri: nonostante i dati sull'affluenza, la possibile abrogazione di tre leggi del governo, nonostante i segnali arrivati dalla Chiesa, la voglia di scherzare di Berlusconi è stata questa. Tu, a un amico, ci sei andato a votare? E l'amico: chi, io? E me lo chiedi pure? Ovviamente no, Silvio. Meno male, ha detto Berlusconi. Se andavano anche i miei amici, il quorum arrivava al 100%. Questo, la voglia, l'ironia di Silvio Berlusconi, secondo il Corriere della Sera. La verità è che la situazione, certo, è di fibrillazione all'interno della maggioranza. Beh, intanto il Corriere intervista, o meglio, prende qualche battuta del presidente del Veneto, Luca Zaia, perché ci sono, per esempio, alcuni della maggioranza come il sindaco Alemanno, il presidente della regione Lazio Polverini, il presidente del Veneto Zaia, che sono andati a votare, cioè persone, diciamo, del centrodestra. Ebbene, il Zaia al seggio: non mi ritengo un infame, non sono di sinistra e soprattutto mai lo sarò. Per chi vive in mezzo alla gente questo risultato non è una sorpresa. Io ho votato da cittadino e non da presidente di regione. Il voto dei veneti è una riflessione sui temi importanti. Col referendum tutti i cittadini hanno rivisitato il contratto sociale di Rousseau, non delegando la rappresentanza ma attribuendosi questo diritto. E poi ancora Zaia: non è un voto contro il governo, non è la coda emotiva dell'esito delle amministrative, non è una partita tra Guelfi e Ghibellini, è la certificazione che la gente vuole dire la sua su temi importanti. E insomma, e poi Zaia dice del suo voto. Tra l'altro, per quel che riguarda il referendum, voglio registrare che cosa? La rubrica, il commento di Francesco Piccolo. Francesco Piccolo è un uomo di sinistra, un intellettuale, è lo sceneggiatore di Nanni Moretti e tiene una rubrica ogni lunedì sull'Unità dal titolo Terapia. Io voto e non voglio sconti né regali. Francesco Piccolo, che è sempre un'anima anche critica all'interno della sinistra, beh, scrive oggi: ogni tanto si leggeva sui giornali, sui siti, di sconti al bar, cinema, negozi, in libreria, concerti e quant'altro per chiunque fosse andato al voto. Se i clienti dimostrano di aver votato al referendum, accedono a una serie di facilitazioni, sconti, caffè gratuiti. Tutte queste iniziative sono allegre, certo, ma hanno alla base un'idea del voto piuttosto spaventosa. Le persone sono spinte a decidere se accogliere in Italia l'energia nucleare oppure se l'acqua deve restare pubblica o no, allettate anche da uno sconto al cinema o per una bibita. Tutto questo ricorda molti momenti della storia di questo paese: i pacchi di pasta, le scarpe date una prima e una dopo l'esito del voto, tutte le promesse che cercavano di circuire gli elettori barattando il voto democratico per un vantaggio spicciolo. Ogni volta che ho letto una notizia del genere in questi giorni ho provato fastidio e tristezza. Se queste promesse, non proprio civili, le fanno gli altri, risultano spaventose, poco democratiche, raccontano di che pasta è fatta la politica di quelli lì. Se le facciamo noi sono legittime, divertenti, innocue, anzi hanno uno spirito positivo. Quindi non ci si distingue dai comportamenti che non si condividono, comportandosi in modo diverso, ma dando giustificazioni diverse. È questa la colpa atavica della sinistra, credere di essere diversa per spirito divino e quindi essere impunita. Così Francesco Piccolo sull'Unità. Vabbè, poi la questione del referendum ovviamente la vedremo nel corso della giornata, ripeto, le urne sono aperte fino alle 15, vedremo se ci sarà il quorum e poi come andranno eventualmente le votazioni. L'altro grande tema che ha sviluppato sui giornali ancora rimane è la questione della riforma fiscale promessa, richiesta da molti, dalla Lega, oggi soprattutto in vari articoli di giornali, varie interviste, e che è un po' lo snodo cruciale della legislatura. Allora, intanto bisogna partire dall'intervista che il ministro dell'Interno Maroni ha rilasciato al Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini, a pagina 9. Il governo svolti o si va a votare, Lega indisponibile a formule di transizione. Il premier si impegna alle Camere su riforma fiscale e blocco degli sbarchi, questo è il titolo. Beh, Maroni è molto esplicito in questa intervista. Tirare a campare per noi è tirare le cuoia, non lo possiamo accettare. Ed ecco che in questa intervista, scrive Fiorenza Sarzanini, Maroni si rivolge direttamente a Berlusconi con un ultimatum in 4 punti e su 2 nodi cardine, la riforma fiscale e la Libia. Il mio non è un attacco a Tremonti, inizia Maroni, un collega che stimo, tantomeno al governo, ma è uno stimolo per entrambi. L'unica resa dei conti è nel senso del bilancio pubblico e della riforma fiscale. Ci vuole il colpo di frusta. Berlusconi deve iscriversi nella categoria dei coraggiosi e lanciare un programma ambizioso per i prossimi 2 anni, rilanciare lo sviluppo e sostenere la famiglia, quindi riforma fiscale e quoziente familiare. Questo è quello che chiede la Lega. Altrimenti si va a votare. E chi pensa di far saltare il banco con governi tecnici, istituzionali, roba simile, posso dire che la Lega non ci sta. E ancora sulla fiducia prevista il 22 giugno, credo che Berlusconi sia ancora in grado di ottenere un consenso ben più alto di quello avuto sinora, dice Maroni, ma è questo l'ultimo banco di prova, è una via stretta, difficile, con molti vincoli che lo stesso Tremonti ha indicato, ma è l'unica che possiamo percorrere, altrimenti, lo ripeto, tiriamo le cuoia. E poi sulla Libia, le carrette del mare che trasportano profughi vengono solo dalla Libia. Berlusconi si deve fare portavoce sulla scena internazionale di chiedere di fermare i bombardamenti e lasciare spazio alla diplomazia. Insomma, questo l'insucco, il cuore dell'intervista di Maroni, che è molto duro a dire con questi ultimatum, altrimenti si tira le cuoia. Tra l'altro Luca Zaia, che è intercettato dal Corriere, fa anche un'intervista un po' più ampia su Repubblica con Paolo Berizzi, e anche Luca Zaia dice da leghista: nessun caso di lesa maestà contro Tremonti, che è l'uomo dei conti, nessuno li conosce meglio di lui, è l'uomo che ci ha salvato e non ci ha fatto fare la fine della Grecia, ma allo stesso tempo ha fatto bene Maroni a chiedere più coraggio. In questo momento bisogna rischiare un po', la gente, soprattutto al nord, ne ha le tasche piene. Il Veneto ha 5 milioni di abitanti, il 10% della popolazione, siamo la regione delle partite IVA, ma ora la gente va dal commercialista, un giovane, se vuole aprire la partita IVA va lì, chiude la cartelletta e se ne va via. La gente non ne può più dell'ufficio complicazioni affari semplici. E sulla questione dei soldi, dice Zaia, i soldi si trovano. Abbatti i costi della politica, acceleri la cartolarizzazione dei beni pubblici. Non è possibile che non riesci a venderli perché le norme sono lente e passano anni. Insomma, anche Zaia dice ci vuole il colpo di frusta. Allora, eccolo qui, lo abbiamo sentito anche nel giornale radio. Giulio Tremonti è il grande, il personaggio insomma chiave sicuramente sotto la luce dei riflettori, tutti a guardare a Giulio Tremonti. Tremonti rilancia, scrive il Corriere, e chi paga la riforma? È sempre lì la questione, il nodo dei costi, come finanziare questa riforma. Tremonti ha parlato di sé in terza persona, Giulio Tremonti. Tremonti vuole fare la riforma fiscale, ha già le idee chiare da almeno un anno, il problema è dove trovare i meccanismi finanziari. Ed ecco allora che Bossi subito ha rilanciato: chiudiamo le missioni di pace all'estero. Pare, secondo il giornale, addirittura pagina 4, che proprio questa sarà la mossa di Pontida. Pontida è il raduno leghista settimana prossima, il prossimo weekend. Si chiederà lo stop ufficiale alla missione in Libia per ridurre le imposte. E dunque insomma, si capisce anche l'intervista di Maroni, che su questo al Corriere dice a Berlusconi sulla Libia si faccia garante di una richiesta della fine delle ostilità per una mossa diplomatica. Però insomma Tremonti insiste, si parla di ritocchi all'IVA, ora è difficile, dice il ministro, e poi sulla questione dei costi ha usato questa metafora. Io ho le idee assolutamente chiare su cosa è giusto per il fisco e su quale aliquote applicare, ma qui c'è la tendenza di chi va al bar e dice da bere per tutti e poi chi paga? Chiede Tremonti. Voi, sono tentato a dire, io vi faccio la riforma e voi mi trovate 80 miliardi. Questo insomma ha quantificato così il ministro dell'economia. Bisogna trovare 80 miliardi, questo è il titolo anche della Stampa. Tra l'altro sia Corriere che Repubblica si esercitano su cosa potrebbe essere lo snodo di questa riforma. A pagina 11 Enrico Marro sul Corriere, i punti cardine sono non aumentare il deficit, il punto cardine secondo, come scriveva Il Sole un paio di giorni fa, far pagare le imposte dalle persone alle cose, spostando gradualmente l'asse del prelievo fiscale. Il terzo, salvaguardare la prima casa e la famiglia, dunque un punto fermo, nessun aggravio su imposte di prima casa e risparmi delle famiglie. E quattro, razionalizzare il welfare. Mentre su Repubblica la ricetta di Susanna Camusso, che è il leader il segretario della CGIL, intervistata da Valentina Conte a pagina 9, è questo: il ministro cerca risorse, le trovi nelle rendite finanziarie, nelle transazioni speculative, nei grandi patrimoni. Perché non si fa un'operazione secca? Il reddito è tassato al 23%, le rendite al 12,5%, equipariamole come in Europa. E poi dice Susanna Camusso, no all'aumento dell'IVA, la crescita dell'IVA non porta a granché, e senza pensare al doppio effetto sui consumi, inflazione e depressione. Insomma, la riforma fiscale, come farla e come trovare questi 80 miliardi, le proposte della Lega, le fibrillazioni che questo comporta nella maggioranza, è sempre il piatto politico del giorno. Ci fermiamo per il traffico. Fabio Fazio scrive in prima pagina di Repubblica una lettera: vieni via con me, lascerà questa Rai. Rinuncio a vieni via con me. In questa Rai non è possibile, la farò in un'altra televisione. Così Fabio Fazio, in una lettera, il conduttore di Rai 3, a questo punto non si sa ancora per quando, scrive in prima pagina di Repubblica, insomma, dopo l'addio di Santoro alla Rai, è un momento ed è una giornata oggi decisiva per la Rai, perché per l'ennesima volta il direttore generale, lei, presenterà i palinsesti e proprio i punti di Rai 3, cioè Fazio, la Gabanelli, la Dandini, Lucia Annunziata, che sarà nostro ospite alle 8:20 nell'intervista, sono i protagonisti, insomma, perché il consiglio d'amministrazione non riesce a riunirsi, perché alcuni consiglieri, quelli in quota del centrodestra, non si presentano e fanno mancare il numero legale. E c'è questo blocco dunque sui programmi di Rai 3. Bene, Fabio Fazio oggi prende carta e penna, scrive su Repubblica: caro direttore, da oltre 6 mesi ho dato la mia entusiastica adesione al direttore di Rai 3, Ruffini, che mi aveva proposto di proseguire Che tempo che fa per i prossimi 3 anni, così come da ritrovarmi sin da gennaio con Saviano per una nuova edizione di Vieni via con me. Da oltre 6 mesi aspetto una decisione della Rai. E qui poi Fabio Fazio è tutto all'interno di pagina 11, sciorina tutte quelle che sono le problematiche, insomma, pare, sento che il programma deve cambiare rete, essere ridotto, pare che Luciana Littizzetto sia considerata eccessiva, questo per il programma Che tempo che fa. Viene da chiedersi come tutto ciò sia possibile, perché accade, soprattutto a chi giova. Ho letto anche che Milena Gabanelli nemmeno è stata ancora ricevuta, a Floris è stato consigliato di dedicarsi a qualcosa di nuovo, Santoro è stato lasciato andare con un evidente e inaudito respiro di sollievo, a me non vengono date le minime garanzie per continuare a lavorare in pace. Insomma, l'indifferenza, scrive Fazio, l'ostilità da parte dell'azienda è stata evidente sin dal primo momento. Ed ecco qui l'annuncio: per questo ho deciso di non correre più un simile rischio professionale, ho deciso che non sono più disponibile a ripetere l'esperienza di Vieni via con me in questa Rai. Se altrove troverò le condizioni necessarie, l'entusiasmo e la condivisione del progetto, il pubblico potrà ritrovare presto me e Saviano di nuovo insieme. Questo per quel che riguarda Vieni via con me, mentre Che tempo che fa Non so come andrà a finire, dice Fabio Fazio. Insomma, questo è il succo della sua lettera su Repubblica. Un po' i vari quotidiani, Repubblica ci mette anche un pezzo proprio sulla cronaca, l'ultimatum di Fabio Fazio, potrei andare via anch'io. Anche per Unità oggi palinsesti Rai, lei conferma tutti, l'incognita è Silvio. Andremo, vedremo come va a finire, chiederemo qualcosa, qualche lume anche a Lucia Annunziata alle 8:20. Voglio prendere in mano il Sole 24 Ore. Nella prima pagina c'è questo dato molto preoccupante, questo dato sulle professioni, la fuga dei giovani, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore di oggi. Siamo un paese di professionisti con i capelli bianchi, beh, che siamo un paese vecchio questo si sa, ma siamo anche un paese che invecchia nelle professioni, giovani laureati in fuga dagli ordini, con Francesca Barbiero e Chiara Bussi a pagina 3 raccontano della nuova Italia dei professionisti dai capelli bianchi, un paese di avvocati, ingegneri, dottori commercialisti sempre più vecchi, soprattutto a registrare il calo più significativo dei candidati giovani che si iscrivono. Questo è uno studio, una fotografia del Ministero dell'Università e della Ricerca. Dell'istruzione, insomma, il ministro dell'istruzione, gli agronomi, i candidati sono crollati del 61%, ma soprattutto delle categorie e professioni più affollate, gli architetti meno 36%, gli ingegneri meno 31%, nell'anno accademico 2009-2010 rispetto all'anno precedente, cioè si iscrivono sempre meno i giovani sulle le nuove leve, non credono più dunque alle professioni. Beh, un dato abbastanza inquietante che trovate sviluppato a pagina 3 del Sole. C'è poi, per concludere, molto di esteri, c'è ancora del nostro caro Cesare Battisti che se ne sta in Brasile, pare che viva dall'avvocato, un nuovo avvocato, l'avvocato Greenalg, vive a casa sua a San Paolo. Ha raccontato anche una storiella simpatica, povero Cesare Battisti, è uscito a fare una passeggiata, si è perso per i quartieri di San Paolo, ho dovuto chiamare l'avvocato, per favore vienimi a prendere che mi sono perso. Sono cose che succedono. E poi l'avvocato dice con me non farà fesserie e promette, per ora non parla, ma parlerà il 22 giugno quando il Ministero del Lavoro esaminerà la sua richiesta di visto speciale e sarà finalmente regolarizzato dal punto di vista amministrativo. Cioè non parla fino al 22 perché in questo momento è un irregolare Cesare Battisti e dunque se parla e dice qualcosa rischia anche di finire nei guai, poveraccio. E poi c'è molto anche della Siria, di quello che sta succedendo in Siria. Io vi invito a leggere i giornali concentrandosi sugli esteri perché c'è veramente una guerra civile ormai, come scrivono da vari giorni, ma sempre più grave, con le truppe del presidente Assad che sono entrate in una città ribelle e hanno bombardato questa città, in migliaia fuggono verso la Turchia, c'è anche un problema di questo tipo. E tra l'altro, retroscena interessante raccontato da Guido Limpio sul Corriere della Sera, pagina 12, è stato svelato in realtà dal New York Times, quindi è una ripresa del New York Times. Gli Stati Uniti hanno finanziato con un progetto di 70 milioni di dollari, che cosa? Un progetto chiamato Internet Ombra. Ci stanno lavorando quattro esperti, Josh King, un programmatore, l'hacker Thomas Gideon, un esperto di computer Dan Meredith e Sasha Mainwright, master in psicologia e molte idee, una strana gang strafinanziata dall'America per creare che cosa? Una sorta di internet nella valigia, un sistema che possa creare una rete alla quale agganciarsi col proprio computer, un network che deve operare fuori dalle bande ufficiali e che deve essere fornito a chi? Ad attivisti oppositori costretti a vivere in regimi repressivi. Una sorta di internet non controllabile, una sorta di internet che viene messo internet in valigia e presentato proprio a questi ribelli, a queste persone che si ribellano alla situazione delle oppressive di alcuni paesi, soprattutto paesi arabi. Ci fermiamo qui con la rassegna stampa, è tempo di Giornale Radio.